Gary il Grande. C'era una volta un uomo forzuto che si chiamava Gary. Lavorava in un parco di divertimenti. Ogni giorno indossava un paio di pantaloncini rossi, corti e lucidi, una maglietta bianca e guanti da pugile. Saliva su una piattaforma e gridava: «Avvicinatevi, avvicinatevi! Venite a vedere Gary il Grande! Guardate come lotto! Ammiratemi mentre sollevo questi pesi tremendi! Guardate come piego le sbarre di ferro! Mai avete visto qualcuno forte come me!» La gente ammirava attonita i forti bicipiti di Gary, che alzavano enormi pesi come fossero fuscelli. Poi lo applaudivano e gli gettavano delle monete. Certe volte Gary gridava con voce stentorea: «Signore e signori, darò un super premio a chiunque sia capace di sconfiggermi o sollevare uno dei miei pesi. Fino ad oggi nessuno c'è mai riuscito, perché io sono Gary il Grande!» Spesso qualcuno saltava sulla piattaforma e misurava la propria forza con lui, ma bastava una sventola menata da Gary con i suoi guantoni per stenderlo in un attimo al tappeto. Altri tentavano di sollevare i suoi pesi o di piegare le sbarre, ma al suono del gong: «Stop!» diceva Gary, «il tempo è scaduto, nessuno ha vinto il premio, io batto tutti!» Accadde che un giorno nel parco dei divertimenti si trovasse la signora Gracilini, una piccola vecchia dama. Era stata sulla giostra per 3 volte, era entrata nel padiglione degli specchi, era salita sul trenino fantasma e ora la sua borsa era completamente vuota. «Senti quante arie si dà l'uomo forzuto», disse. «Come mi piacerebbe batterlo!» Rimase lì a guardarlo per un po' e poi lo interpellò. «Prego, signor Gary! Signor Gary, prego!» Ma era così minuta che dapprima Gary non la vide neppure. «Desidera qualcosa, signora?» fece con un sorrisetto ironico. «Magari vorrebbe provare a vincere il super premio!» Rise e la folla gli fece eco. «È proprio quello che stavo pensando», disse la signora Gracilini. «Ho qualcosa qui nella borsa e credo proprio che lei non riuscirà ad alzarla.» Gary il forzuto fu così solleticato all'idea che rise e rise a più non posso. «Va bene, signora», disse. «Se in quella borsa c'è qualcosa che io non riesco a sollevare, le prometto di darle quel super premio. Vuol controllare se i miei guantoni sono bene allacciati? Voglio essere pronto per questo tremendo sollevamento pesi.» La piccola signora Gracilini gli strinse i lacci dei guantoni più forte che poté. Poi Gary continuò a gridare: «Signori, questa piccola dama sostiene che non sarò capace di sollevare una cosa contenuta nella sua borsa. Ebbene, faccia vedere la borsa, signora!» La signora Gracilini alzò in alto la sua vecchia borsetta nera. «Allora, è proprio sicura di quel che dice, signora?» «Oh, sì, sì», confermò quella. «Va bene, allora metta l'oggetto sulla piattaforma!» La signora Gracilini aprì la borsetta e mise con cura uno spillo. Un comune spillo in mezzo alla piattaforma. Con una risataccia Gary si chinò e cercò di prenderlo. Poi provò di nuovo. E poi ancora. Ora non rideva più. Non c'era verso di riuscirvi, perché le sue mani erano strette nei guantoni da pugile. Si inginocchiò, si accucciò, si sdraiò sullo stomaco e soffiò sullo spillo. Ma stop! Il gong. Lo spillo della signora Gracilini era ancora per terra. Gary il forzuto consegnò un biglietto alla signora Gracilini. «Lei ha vinto il super premio, la possibilità cioè di usufruire gratuitamente di ogni attrazione del parco. Può rimanere tutto il giorno e non le costerà un soldo.» Così la furba piccola dama trascorse una giornata divertentissima, passando continuamente da un gioco all'altro.